Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. No, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo tutti qui riuniti al Bracco Baldo Show, signori, per una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000. Guarda lì l'Alpino in regia, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Leonardo... No, Leonardo Manera arriverà, insomma oggi c'è proprio sole, sole pieno a Milano. Amici ascoltatori, allegria! Arriverà, oggi mi gioco veramente una cantina della mia casa che viene qui. Leonardo, ma ieri l'ho sentito, ha detto domani vengo in radio. Bene, ottimo. 9 minuti, ci siamo con voi con 800 24 00 24 per chiamarci e 349 238 6666 per scriverci, mandare audio. La mail 100.000@radio24.it, anche se assembramento, come dice l'ascoltatore in presigla, 100.000. Ci siamo, vai Alpino. I will not be easy and it will not be easy. Oggi affrontiamo tanti temi, eh? No, mi avete messo Bob Marley veramente. No. Vabbè, facciamolo ascoltare tutto, dai. Questa è la versione con intro lunga però, perché nella versione vera avrebbe già iniziato a cantare. Cos'è? È strumentale evidentemente, i Three Little Birds. Quando è che Bob inizia a cantare? Avanti così 10 minuti? Chissà se mai canterà. Abbiamo preso l'unica versione? No, proprio è strumentale. Vabbè, Three Little Birds. Vabbè, non mi metterò a cantare io per non sfregiare l'anima del grande Rastafari. Va bene, signori, 9 e 10 minuti. Che dire, io oggi ho letto i giornali, alcune tematiche che trovate sui giornali in prima pagina le affronteremo anche noi. Questa cosa dei test rapidi nelle scuole, i tamponi nel calcio, avremo il professor Bassetti tra poco. Parleremo quindi un po' di coronavirus, parleremo di altre tematiche, torneremo sulla vicenda di carbone. Ah, guarda, le i3s iniziano con dei coretti sotto. Vabbè. È una versione un po' bizzarra. Va bene, allora signori, però ieri Bianca Berlinguer è la notizia del giorno, Mauro Corona non si è presentato, il nostro Mauro Corona estromesso da Bianca Berlinguer e dalla Rai. Torna Corona, dai Maurino, torna Corona da Bianca Berlinguer. L'appello. Avrete notato che Mauro Corona non c'è, sì. Sapete cosa è accaduto nella passata trasmissione, il suo comportamento è stato talmente sgradevole da costringermi a un certo punto a chiudere il collegamento. Lo so, però a me manca Corona. Vabbè. Resto convinta che queste tensioni vadano risolte in modo... Sì. Aperto e dialettico, sì, con un confronto, sì, anche duro, anch'io, ma senza ricorrere a misure disciplinari. No, che misure disciplinari? No, dai, adesso mica addirittura. Questo è il mio auspicio, che una volta decantata la situazione, dopo una riflessione che sicuramente ci deve essere da parte di entrambi, si possa tornare, cioè possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità, ma risparmiandoci. Torna Mauro Corona, torna anche da noi, torna, dai, deve o no tornare Mauro Corona secondo voi da Bianca Berlinguer? Ma chi se ne frega! E dai Alfino, però scusa, così mi distruggi tutta l'introduzione. Ma chi se ne frega? Vabbè signore, allora io ho iniziato e voglio oggi tornare a fare questo appello, lo farò tutti i giorni. Oggi sono 29 giorni che 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia. Se non si è neanche capito per quale motivo, con quale accusa formalizzata. Cioè, e vi sembra normale che 18 cittadini italiani, lavoratori, vengano trattenuti in Libia? Ho detto già ieri, sicuramente la Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri sta lavorando per cercare di portarli in Italia. Non ho dubbi su questo, ci vuole anche una certa discrezione, queste cose non devono essere pubblicizzate, eccetera. Ma dal punto di vista dell'informazione mi sembra, io voglio aprire tutti i giorni, come ho fatto ieri e farò oggi, domani, spero di finire presto perché vuol dire che saranno tornati in Italia, ma segnalo che da 29 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia a Bengasi. E torno a salutare, lo ringrazio, l'armatore di uno dei due pascherecci, il Medinea, Marco Marrone. Buongiorno Marrone. Buongiorno 29 giorni, io domani dirò che sono 30, poi 31, spero di fermarmi presto, se no è il mio dovere ricordare questa vicenda. Ha capito l'accusa dei libici nei confronti di questi 18 pescatori? Lei l'ha capita? Sì. No, io leggo dai media, da voi in radio, cioè, ne sento tante, però purtroppo conferme ufficiali ancora oggi di accuse o di trattative non abbiamo avuto. Niente. Nonostante ieri siamo riusciti ad avere un incontro con il presidente Conte e a fianco a lui seduto c'era il ministro Di Maio. Sì, che voi avevate già sentito l'altra volta, ci avevamo sentito, avevamo sentito in videoconferenza, sì. Questa volta siamo riusciti ad incontrarli. Dico, il premier e il ministro Di Maio ci hanno sempre rassicurati del fatto che le massime forze e del governo e dei servizi segreti comunque stanno lavorando, ma quindi io non ho dubbi ma nemmeno questo. Io ci mancherebbe. Ed è anche una situazione non facile. Io voglio capire se dalla Libia non si è capito se siano in carcere trattenuti. L'altra volta ci ha detto in una casa, però non hanno i telefoni. No, guardi, alla di casa, di ville, tutto quello che si è sentito in questi 29-30 giorni non c'entra niente. Sono trattenuti in una stanza tutti insieme, quindi non è comunque un lato del carcere lì vicino Bengasi. Sono trattenuti tutti insieme, non mi dicono e mi confermano con i detenuti comuni, ma comunque è un'ala del carcere, cioè. Un'ala del carcere, ma non con detenuti comuni, ma questo abbiamo avuto comunque conferme, ripeto, io ne sono convinto di questo, non sono come molti magari pensano buttato in carcere. No, va bene. Quindi, ripeto, ieri abbiamo avuto comunque, ripeto, sempre gli stessi discorsi, ok? Stiamo lavorando, stanno bene, non vi preoccupate, eccetera. Trattative delicate e quant'altro. Però, ma perché in questo caso i dettagli non vanno raccontati, altrimenti no, io posso capire. Giustamente, però giustamente. Almeno dalla Libia dovrebbero dire di che cosa sono accusati, cioè sono accusati di aver violato le acque libiche e basta, e uno per questo allora li tiene in carcere? Di altre conferme, sempre ricevute anche la Farnesina, ci sarà nel mese di ottobre un processo. Speriamo di non arrivarci. Il processo per cosa? Il processo è sicuramente per la violazione delle acque libiche. Poi se si vogliono inventare altre capi d'accusa, dico, possono fare quello che vogliono. No, va bene, ma uno, se il capo d'accusa è questo, va a processo in Libia, non ho capito, perché ha violato le acque libiche, per carità. Sempre stato così comunque, sì, sempre stato così. Questo è un, purtroppo c'è un dato di fatto. Però ripeto, mi hanno garantito, cercato di far capire, dandomi anche delle sicurezza, quando poi, noi stiamo parlando adesso a telefono, ma quando si parla guardandoci negli occhi, comunque avverti altre sensazioni, avverti altre emozioni. Quindi dico, sinceramente ho avvertito delle sensazioni positive, nel senso che comunque cercheranno di sbrigarla, di chiuderla entro questo, tra virgolette, processo che ci sarà nel mese ottobre, e tutto, hanno tutto l'interesse nel farlo, hanno promesso, cioè detto dal presidente in persona, vi prometto che riusciremo, dateci fiducia e tempo, perché stiamo veramente lavorando molto bene. Noi ci auguriamo che realmente riescano, va bene, sono passati troppi giorni, abbiamo tutti paura, abbiamo, però a qualcuno mi devo però affidare, cioè io purtroppo non ho... ma è chiaro, guardi Marco Marrone, io ci sentiamo nei prossimi giorni, nel senso che io continuo a dire, domani saranno 30 giorni di fatto, e sono sicuro, e lo ribadisco, che dalla Farnesina alle istituzioni, i servizi segreti siano in contatto per risolvere questa situazione. Ora forse ci sarà un processo, non si capisce. Sta di fatto che da 29 giorni ci sono 18 pescatori italiani detenuti, anche se in un'ala particolare, non con i detenuti normali del carcere di Bengasi, e non si capisce neanche, al di là della violazione delle acque territoriali per pescare i gamberi, immagino, non ci sono accuse più gravi di queste. Per carità, anche violare le acque territoriali è un reato, però vedremo. Alle 9:20 minuti, adesso voglio parlare un po' del tema coronavirus. Il calcio è nel mirino, dopo la vicenda che a Genova ha portato diversi giocatori del Genoa ad essere positivi. Oggi Massimo Gramellini, sulla prima pagina del Corriere della Sera, firma un editoriale in cui richiama alla serietà personaggi del calcio, giocatori che sono ricchi, famosi, e scrive Gramellini: siate anche seri, dicendo in pratica che la ricchezza, la fama, deve anche comportare un certo senso di responsabilità, che non è che può spingere i calciatori, che ne so, ad andare in feste come prima. Ovviamente si allude al fatto che potrebbero esserci stati dei contagi per una vita così al di fuori un po' delle regole che tutti siamo chiamati a rispettare. Voglio però chiamare in causa, e lo ringrazio, il professor Matteo Bassetti, che dirige la clinica delle malattie infettive tropicali al San Martino di Genova. Buongiorno Bassetti, grazie. Buongiorno, sei qui. Buongiorno a lei. Tra l'altro non so se lei è appassionato di calcio. È lì a Genova. Io sì, sono uno dei tanti appassionati e sono anche un tifoso del Genoa. Ahimè, meglio. Senta, lei ha fatto questo post molto discusso in cui ha definito questa come una possibile Waterloo dei tamponi, cioè una sconfitta clamorosa. Sappiamo tutti la storia, Napoleone e Waterloo. Ce la vuole spiegare un pochino? Ma guardi, di più? È voluta essere una provocazione di questo tipo, che fatti come li stiamo facendo, così un po' come una rete a strascico, non hanno un senso, un significato. Mi pare che l'episodio Genova dimostri in maniera inequivocabile come il tampone da un'istantanea, cioè da una fotografia di oggi, certo, è già diverso da quello che succederà domani. Quindi è semplicemente un richiamo a che i tamponi non vengono declinati secondo le esigenze del popolo e le esigenze di un esercizio commerciale o le esigenze di chissà quale associazione, ma che tornino ad essere richiesti dai medici. Quindi torniamo a fare una medicina dei medici, perché comunque il tampone è un esame importante e fondamentale per i sintomatici, ma gli asintomatici rischia di darci delle risposte fuorvianti. Mi pare che il Genoa sia quell'esempio. Io riporto l'esempio a quanto è stato fatto quest'estate. Quanta gente che è tornata da paesi ad alta endemia ha ricevuto un tampone e gli si è data una patente di liberi tutti? Bene. Il tampone non dà una patente di liberi tutti, e questo deve essere molto chiaro, perché se siamo in quel periodo in cui io sto sviluppando in qualche modo i sintomi o in qualche modo la carica sta salendo, il tampone potrebbe essere negativo e domani essere positivo. Sì, diciamo che può dire oggi è così, ma dovresti farlo tutti i giorni. Dovresti farlo tutti i giorni. Allora, è impossibile. Allora, il richiamo è tanto alla medicina e che i medici tornino a fare i medici, a visitare i malati. Il secondo è alla buona vecchia quarantena. Quindi questo, quello che è successo al Genoa, frutto di un protocollo che probabilmente andrà rivisto, ci dice che se i giocatori che hanno avuto contatti col caso Indice fossero stati messi per 7 giorni in quarantena, non sarebbe successo niente. Invece così sono andati a disputare una partita con un'altra squadra, e a quel punto c'era qualcuno magari durante la partita positivo, e non si può escludere che magari qualcuno della squadra Napoli si sia infettato, ovviamente creando un problema. E questo era il motivo del post. Quindi lei dice intanto rafforziamo il ruolo dei medici, che devono tornare a fare il medico di base, deve visitare, deve capire i sintomi, no? Se ci sono. Torniamo a fare quello per cui abbiamo studiato, cioè in questi mesi purtroppo si è perso molto del senso, ma non solo in questi mesi, probabilmente anche negli ultimi anni. I medici sempre meno visitano i loro pazienti a casa, anche in ospedale si tende a dire ma faccio la visita in remoto, guardiamo i nostri malati. Io quello che insegno ai miei studenti è che bisogna continuare a mettere le mani sulle pance, bisogna continuare a mettere i fonendi sulla schiena, bisogna continuare a parlare con i pazienti, bisogna continuare a guardarli, perché questa è la medicina, la forza del mondo medico è questa, continuare a fare quello che abbiamo fatto per tanti anni. Sì che oggi abbiamo strumenti moderni, ma lo strumento moderno come il tampone o come l'attacco, senza l'apporto della nostra professione vanno poco lontano. Sì. Io quello che dico è, noi oggi abbiamo speso complessivamente, forse siamo arrivati a spendere quasi 1 miliardo di euro di tamponi, abbiamo speso altrettanto denaro per assumere medici, infermieri e operatori sanitari, non mi pare, non credo. Beh sì, infatti sicuramente la spesa c'è, ma tornando per un attimo alla questione del calcio, quindi lei dice primo caso positivo al Genoa, bisognava mettere in quarantena tutta la società, come d'altronde succede, cioè se mio figlio, la questione è questa, perché che è la domanda che si fanno un po' tutti, per i normali cittadini avviene così, cioè uno è positivo in famiglia, viene messa in quarantena preventiva l'intera componente della famiglia. Perché nel calcio non è così? Questo non l'ho deciso di mandare. No, certo, ma cos'è? È una cosa strana. Lei da medico dice. Io le dico, il calcio c'è stato un protocollo che è stato anche in qualche modo fatto da colleghi in collaborazione con la Federazione Italiana del Gioco Calcio, e si è deciso di fare questi tamponi ogni 2 giorni. E soprattutto col tampone nel giorno della partita. Però io credo che bisognerebbe derogare quando ci sono situazioni come questa, ovvero se c'è un caso positivo, io credo che bisognerebbe anche andando contro quello che hanno fatto nel resto d'Europa, bisognerebbe pensare a una quarantena. Quello che si può fare è accorciare questa quarantena, portarla a 7 giorni, come si discute in Francia, anche se per il momento anche in Belgio, da ieri il Belgio ha portato. Lei sarebbe favorevole, cioè secondo lei si può fare? Guardi, noi dobbiamo cercare di semplificare la materia. Io credo che la quarantena fatta, accorciata, con un tampone per finirla, che sarebbe il tampone al 7° giorno, sarebbe un modo per tanto ridurre del 50%. Quindi anche noi 2 tamponi negativi lei lo trova esagerato? Sì, allora, il doppio tampone negativo mi pare che anche questo sia una di quelle cose su cui dovremmo riuscire ad uscire, sempre col discorso clinico, perché vede, se io ho un paziente positivo, gli americani, ma anche devo dire molti altri paesi europei, dicono che alla conclusione dei sintomi basta che passino 10 giorni e tu sei rimettibile in comunità, a prescindere dal fatto del tampone. Quindi, noi col doppio tampone stiamo oggi murando in casa gente da mesi. Io ho tanta gente che mi telefona, che mi chiede aiuto, gente con tamponi debolmente positivi da 12-14 settimane. Siamo proprio sicuri che queste persone con il tampone debolmente positivo siano contagiosi? Io non ne sono così sicuro. Guardi, è la Waterloo del tampone, che non voleva essere, voleva essere. No, no, sì, che non vuol dire il tampone non serve, ma certo che no, io sono meno male che c'è la ricerca del tampone per i sintomatici, però su tutto il resto bisognerebbe, secondo me, forse essere meno di parte, perché io qui in questi mesi ho visto in Italia tanta partigianeria per il tampone, e invece il tampone è uno strumento fondamentale, però deve essere usato quando serve. Quindi, scusi, quando lei legge oggi, se legge sui giornali, in arrivo i test rapidi nelle scuole, perché le scuole sappiamo che sono un grande problema, una grande opportunità, ma anche possibile fonte di problemi, quindi si dice invece di tenere a scuola, a casa i ragazzi 14, 15, 20 giorni, facciamo il test rapido con i tamponi, non è che ci sono altre soluzioni. Ma guardi, il test rapido funziona nello stesso modo. Cioè addirittura col test rapido possiamo avere dei falsi negativi, cioè qualcuno che potenzialmente era positivo potrebbe essere falso, però certamente potrebbe aiutare. Dove potrebbe aiutare? Nei confronti delle scuole, quando ci fosse un caso positivo. Io non lo utilizzerei a pioggia come una rete a strascico, andare a dire vediamo in questa scuola quanta gente è positiva, non ha nessun senso. Nel momento in cui ci fosse un caso si potrebbe utilizzare attraverso i test rapidi vedere chi dei contatti, diciamo degli alunni, degli studenti che hanno avuto, che sono stati nella classe insieme a quello che è risultato positivo, si potrebbe utilizzare questo. Però bisogna sapere, quello che è importante secondo me, bisogna sapere che ci possono essere, come Genova ha dimostrato, delle situazioni in cui il tampone vi dice una cosa e dopo due giorni la situazione è diversa, perché come dire è un'istantanea. Però su questo professor Bassetti, diciamo che anche noi cittadini che non abbiamo le competenze di voi medici notiamo che ci sono diverse teorie. Lei sa, come dire, il professor Crisanti dice invece tamponi a tappeto per tutti. Ma il problema è che io so bene che Crisanti tamponiate poi, però bisogna spiegare queste cose, perché sennò la gente oggi questa malattia è diventata una malattia di cui tutti parlano. Allora dobbiamo evitare di creare delle false speranze nelle persone, perché cosa è successo quest'estate? Che probabilmente qualcuno che è tornato dalle vacanze, che ha fatto il tampone nei porti, negli aeroporti, gli hanno detto è negativo, si è sentito libero di dire io il coronavirus non ce l'ho oggi, ma magari tra tre giorni ce l'hai. E quindi cosa è successo? Che questa gente cosa ha fatto? Sentendosi libera di non avere il Covid, perché guardi quello che capita anche ai miei collaboratori o anche a me, fai il tampone, dici ah che bello, io adesso non sono tranquillo, posso abbracciare, posso fare. No, invece questo è quello che noi dobbiamo dire alla gente. Fino adesso se è andata bene, continua a mantenere come dire, i comportamenti corretti, mascherina, lavarsi le mani, distanziamento fisico, perché così continua ad andare bene. Sì, certamente questo aspetto psicologico che lei ci introduce, e io la ringrazio, professor Matteo Bassetti. Un'ultima domanda è questa, scusi, ma quindi con questo principio, uno positivo al Genoa nel caso o in un'altra squadra, bisognerebbe mettere in quarantena? Così si sospende il campionato nel giro di poco. Ma vedi, non lo so se si sospende il campionato. Certamente quella squadra che ha avuto un caso, secondo me, almeno per 7 giorni sono stati dei contatti, e noi sappiamo che negli spogliatoi i giocatori sono molto vicini uno all'altro, no? Al di là dei protocolli, ma anche in campo si abbracciano. Mi consente di dire, oggi ho letto anch'io l'articolo della sera, però mi sembra un po', come dire, voi giocatori che siete ricchi, che potete fare quello che volete, vi siete andati a divertire a fare delle feste nelle discoteche e per questo vi siete presi il Covid. Attenzione, perché i giocatori giocano al calcio, che è uno sport di contatto, fanno allenamenti prolungati. Fanno negli spogliatoi, fanno la riabilitazione, fanno la forse palestra. Banalmente lei dice è lì, ecco, che si contagiano, cioè sono è molto più facile che si siano contagiati lì che non dire guardate che 14, visto che si è contagiato il medico, si è contagiato il fisioterapista, si è contagiato il massaggiatore. Ora, a meno che uno non pensi che abbiano fatto una festa tutti insieme in qualche discoteca, però ecco, questo pensare male dei calciatori, secondo me bisognerebbe un po' evitare di farlo. Sono dei lavoratori anche loro e vanno rispettati. No, ma è chiaro, ma c'è un po' in Italia l'idea di dire hai preso il virus, no, evidentemente ecco, hai avuto qualche comportamento sbagliato. Me, ecco, io lo dicevo, non è sempre così, a volte ecco, capita, no, ma non è sempre di così. Cerchiamo di uscire, di evitare, di continuare con questa teoria della colpa, sì, che è molto una teoria del peccato, molto della è molto cattolica, certo. ecco, certo. Voglio dire, colpa tua. Se c'è il virus, non è colpa. Abbiamo dato la colpa alle discoteche, abbiamo dato la colpa che è andato in vacanza, abbiamo dato la colpa ai calciatori, abbiamo dato la colpa a questo, a quell'altro. Cerchiamo di evitare delle colpe. Il virus c'è, noi dobbiamo fare di tutto per evitare che ci siano più contagi, però non è che è colpa. No, ma è chiaro. Grazie, professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive tropicali al Policlinico San Martino di Genova. E visto che ha introdotto l'aspetto psicologico, noi lo affrontiamo dopo la pubblicità con un'altra ospite che ci porterà a Bergamo, uno, sapete, dei centri, adesso non più fortunatamente, ma a marzo non c'è bisogno di dire di cosa. Dopo la pubblicità con Manera in arrivo, no? Adesso arriva. Uno, nessuno, 100 Milan. Parlate di calcio, parlate di Covid, ma sta partendo il Giro d'Italia, ma non avete visto quanta gente si ammassa lungo le strade? La gente non si controlla. Ma fermate il ciclismo, sono un'appassionata di ciclismo, ma sono un'appassionata che vuole vivere. Milan, al Manera, vede la Urassa al Tumados, da Matrami. Non capisce il dialetto, ma forse era abbastanza capibile in tutta Italia, insomma, voglia di lavorare, saltami addosso, dammi retta. E in effetti c'è il sole, non piove, io cosa devo dire? Leonardo non lo vedo, Manera, Bonetti. Buongiorno. Cosa c'è? Allora, dove io vorrei dare conto del mio inizio di giornata di oggi. Dai, ci interessa. Sono alzato alle ore 6:30 per preparare la colazione a mio figlio, quindi ho preparato la colazione. Biscotti nell'acqua. Io abito a Milano, in zona Piazza Udine, quindi l'ho accompagnato a scuola a Brugherio. Brugherio è una cittadina a 10 km da casa mia. Un po' fuori, in periferia. Quindi non avrai trovato nessuno perché tutti i pendolari vengono a Milano. Esatto, solo che io poi dovevo rientrare a Milano da Brugherio e rifare quei 10 chilometri. Allora io sono immobile a Cologno Monzese dalle ore 8. In questo momento? Cioè tu sei in macchina? Sì. Sono in macchina immobile dalle ore 8 a Cologno Monzese perché è impossibile rientrare a Milano da Cologno Monzese. Ma non è vero, ma vai in un autogrill, fatti. No, sono sulla statale, sono in via Milano a Cologno Monzese, ma siccome c'è stato un incidente sulla tangenziale est, in direzione opposta tra l'altro, ma è tutto bloccato, non si può raggiungere Milano. Quindi, ti vuoi fermare al primo bar, poi dai gli estremi così la gente viene a trovarti al bar? Che altezza sei alla statale di Cologno Monzese? Sei a Mediaset, di la verità, a guadagnare dei dollaroni. Sono al numero 40 di via Milano. Sono al numero 40 di via Milano, davanti a un negozio di estetica chiuso che si chiama Estetica Solarium 40. Non fare pubblicità, ma è chiuso, probabilmente è chiuso perché non lavora più a causa del Covid. Vabbè, fermati a un bar. Negozio di estetica chiuso, Estetica Solarium Duomo, che via Milano 40, Cologno Monzese, bloccato perché non si può rientrare a Milano. Appena raggiungi un bar, dimmelo. Allora, adesso chiacchieriamo con una ospite. Prima avevamo il professor Bassetti che ci ha spiegato tutta la questione, i tamponi, eccetera. Ora voglio salutare una psicologa e psicoterapeuta, si chiama Gloria Volpato, è fondatrice del Centro Divenire a Torre Boldone, Bergamo. Buongiorno, dottoressa Volpato, eccoci. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei ha lanciato un allarme che per la verità qui noi abbiamo colto molto seriamente e da tempo anche Leonardo Manera, io diciamo, guardate che voi non ci rendiamo conto, capisco l'emergenza sanitaria in primo luogo, di tutti gli strascichi psicologici che questa pandemia sta lascerà sulla popolazione. Sì, è così. Lei poi parla da una zona, provincia di Bergamo, dove forse ha constatato con mano questo tipo di problematiche. Sì, tenga presente che il mio studio è a Torre Boldone, ma io vivo 500 metri dall'ospedale di Alzano Lombardo. Quindi proprio quell'ospedale. Quindi ero proprio nel centro dello tsunami, diciamo così. E con che dati, se vuole numerici o come dire di osservazione, ci può dire attenzione a quello che lascerà il coronavirus e sta lasciando? Ma allora, io i dati numerici non li ho, ma è anche giusto che non li abbia, nel senso che io faccio la psicoterapeuta, ho come una sorta di piccola bottega provinciale, però come dice qualcuno, ognuno è grande se sta al suo posto, quindi i dati numerici sono stati lanciati, se non sbaglio, in un convegno di psichiatri che c'è stato domenica scorsa e che ha un po' riportato anche il comitato di Noi Denunceremo e che ha un po' ripreso nella campagna mediatica che sta facendo in questo momento. Quindi non mi posso permettere di parlare di dati, posso però raccontarvi la mia esperienza dal punto di vista qualitativo. Tenga presente che la mia relazione con questo territorio della Val Seriana inizia 8 anni fa, quando io inizio a fare delle conferenze che all'epoca si chiamavano Il Potere del Sentire, adesso è diventato il Festival della Consapevolezza, perché già allora io avevo avvertito la necessità di, per sostenere i miei pazienti, di uscire, diciamo, dalla Torre d'Avorio, come può essere percepita dal pubblico dello studio di psicoterapia, e incontrare anche la realtà territoriale, che era una realtà molto povera di strumenti dal punto di vista psicologico. Quindi per me è stato naturale l'8 di marzo, la festa della donna, essere la prima, come dire, un po' come il piccolo soldatino che era al fronte, e poi sono arrivati tanti altri soldatini. Voglio anche nominare l'associazione EMDR Italia, che sempre a titolo di volontariato tutti insieme abbiamo sostenuto quasi 10.000 persone con un protocollo con l'ATS. Ecco, io ero lì l'8 marzo e ho cominciato subito a fare delle dirette Facebook. Ho sentito il dovere di mettere a disposizione le competenze che avevo per dare un po' di sostegno alla collettività, ed ero sola a farlo, e la sensazione che continuo ad essere ancora sola, nel senso, no, che i miei colleghi non stiano lavorando, ma che a livello istituzionale forse c'è poca attenzione, c'è poca attenzione all'aspetto, ma io lo vedo all'aspetto appunto psicologico, a dire adesso siamo tutti concentrati a contare i positivi, quello è positivo, sì, quello non è positivo. Non solo, ma tenga presente che nel linguaggio popolare, se io adesso le dicessi ma stai dando i numeri, lei che cosa capisce? Le sto dicendo che forse lei è un po' matto. Sì. Ecco, facciamo così, che noi stiamo dando i numeri tutti i giorni, quindi è letterale la faccenda, cioè siamo dentro uno spazio di follia, ci arriviamo facilmente, perché dare i numeri, se non c'è dietro un tessuto di senso, non ha, come dire, dare i matti. Ah, guardi, quindi, quello che dice lei è ansiogeno, cioè giustamente è estremamente ansiogeno, e lo capiamo proprio, abbiamo già uno strumento, no? Dare i numeri è essere questa cosa qui. Quindi, ma guardi, cosa per manca? Esempio, il professor Donato Greco, che è un noto epidemiologo, è stato all'Istituto Superiore di Sanità, qualche giorno fa ha fatto proprio un'intervista, ma molti medici dicono la logica dei numeri quotidiani andrebbe superata, anche perché non ha un senso neanche clinico. Non ha un senso clinico, ma ha la logica soprattutto di parlare un linguaggio bellico, e quindi di continuare a contaminare con un'informazione, esattamente come fa il virus, cioè diventa un filamento di RNA che entra esattamente come il virus, e mi piace molto stare in questa metafora, creando un'infezione psichica. È di questa infezione che non ci stiamo assolutamente occupando. Questo filamento, questi numeri dentro il mio territorio psichico, che fine fa? Ovviamente fa la fine che io ci metto sopra tutta una serie di significati che non possono che essere deliranti. Allora è presto fatta spiegata la degenerazione psicotica, il famoso delirio che è in bocca persino all'adolescente, che situazione appunto delirante. È delirante una situazione quando non ha un vero contatto con la realtà e quando lasciamo che delle informazioni vengano organizzate a seconda di come vogliamo. Sì, sì, e poi la deriva paranoica è alla portata di mano. Questo non lo dico io, ma lo dice il professor Zoia, che ha parlato dell'esperienza, ad esempio, della popolazione l'11 di settembre, quando lui era a New York. I morti che ci sono stati a Bergamo sono più dei morti che ci sono stati con la caduta delle torri gemelle. Sì, ma guardi che tra l'altro si vede, si nota, oltre che ansiogena, anche la rabbia. Guardate che già la rabbia, 2 anni fa il Censis aveva detto la rabbia è la cifra per definire l'Italia, 2 anni fa. Potete immaginare adesso con le ansie, con le paure, ma fatevi un giro in macchina a Milano, la situazione veramente è degenerata rispetto, sempre più gente che si manda a quel paese urlando dalle macchine, clacson. Io sinceramente non la ricordavo così prima del lockdown la situazione. Il problema è che se si fanno notare i disagi psicologici che ci sono, subito viene accusato di essere un negazionista che non vuol dare importanza agli effetti sanitari, medici e fisici della questione. No, oppure non c'è, ce ne occuperemo, ma vabbè, ce ne occuperemo. In realtà forse è bene occuparsene contestualmente. Comunque, nel ringraziare la psicologa Gloria Volpato, grazie per essere stata qui, segnalo, Leonardo, che a Cologno, ci dice l'ascoltatore, in via Milano 40 c'è il bar della signora Rosa. Sarebbe stupendo, stupendo, meraviglioso se tu, sempre che tu sia a Cologno, magari sei in qualche parte d'Italia, stai mentendo. Se invece sei da quelle parti, se tu accostassi, entrassi dalla signora Rosa e andassi a berti un caffè dalla signora Rosa, ti paghi... Guarda. Sono entrato prima in quel bar, non so se è della signora Rosa, ma ecco. non mi sembra che prima di tutto non c'è la signora Rosa. Vabbè, ma cosa c'entra? Magari è andata a fare un giro. Ci sono 2 uomini e anche dei loschi figuri fuori, quindi non vorrei essere preso a male parole oggi. Cioè, se si fermano qui, vengono da me, io li accolgo volentieri, ma non vorrei essere preso a male parole. Vabbè, andiamo al traffico. Adesso devi trovare un punto in cui ti fermi per mezz'ora, perché voglio che qualche ascoltatore venga a trovarti. Comunque è dalle parti di Cologno Monzese in via Milano, non so a che civico. Traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Maledetta ansia da Covid. Oggi mio figlio in classe, prima elementare, da 18 sono 5 o 6, perché c'è stato un caso nella scuola e la gente ansiosa non la porta a scuola. Io vorrei che si rendessero conto che esistono dei protocolli e soprattutto a questa età hanno bisogno della scuola. Hanno bisogno di andare a scuola. Lo troveremo mai un giorno in cui Manera non trova una scusa. E quando il meteo, quando il traffico, quando le cavallette, quando le alluvioni. Oh, non ci si fa, non ci si fa. Oh, pittami in golli se Manera non trova scuse tutte le volte. Il racconto di Manera bloccato a via Milano 40 è così tragicamente padano che io ringrazio Dio di farmi vivere a Roma. ciao ciao. E vabbè, è così. Leonardo, ora a te, non lo so, che facciamo? Facciamo, mi sono portato il computer in modo molto previdente, quindi Peter fa partire una bella base. Bene, bene. Io dico la mia. Dì allora, ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Assemblea di Confindustria ha solennemente affermato che bisogna vincere la sfida della ripartenza. Giusto, corretto, assolutamente condivisibile. Devo dire che anch'io, se fossi presidente del Consiglio, vorrei pronunciare frasi di quel tipo. Bisogna vincere la sfida della ripartenza. Insomma, superare gli ostacoli, cogliere in ogni difficoltà un'opportunità non solo per tornare come prima, ma più forti di prima. Bravo presidente, condivido, bisogna vincere la sfida della ripartenza. Ottimo. Mi sento galvanizzato e anche un po' più ottimista del solito. Bisogna vincere la sfida della ripartenza. Sì, ma viene da chiedersi in che modo, visto il periodo un po' complicato. Un'idea chiara, intanto l'abbiamo colta proprio i giorni scorsi, cioè con il rilancio della lotteria degli scontrini, a cui lo stesso Presidente del Consiglio ha dato un certo risalto e anche manifestando un discreto entusiasmo. D'altra parte si sa che in fondo siamo un popolo di giocatori appassionati di gratta e vinci, lotto e superenalotto, e dal momento che alcuni di noi sono ancora a casa ad aspettare la cassa integrazione, altri, come nel settore dello spettacolo, stanno cercando di capire cosa ne sarà di loro e delle loro famiglie, cosa c'è di meglio da fare che affidarsi alla sorte con una bella lotteria dagli scontrini? Se il virus continuerà a rovinare le nostre vite, a rovinare le nostre vite, o meglio, se il virus e anche la paura del virus continuerà a rovinare le nostre vite, in molti avremo bisogno di qualche sovvenzione in più per sopravvivere e di qualche lotteria per sperare di vivere. Vivere normalmente, intendo, qualche sovvenzione, qualche sussidio e qualche lotteria. L'ideale per trasformare un normale cittadino attivo e indipendente in un questuante che si affida ciecamente alla dea della fortuna. Cittadino sanificato però e con le mani libere da ogni microbo. Sarebbe la quadratura del cerchio, quella perfetta, sovvenzioni dello Stato per sopravvivere, mangiare e acquistare gratta e vinci, giocare al lotto e superenalotto per rendere lo Stato mamma quanto elargito con generosità e abbondanza. Fortunatamente però a darci sollievo in questi tempi complicati sono ripartiti alcuni dei miei programmi televisivi preferiti, quelli che non posso evitare di guardare perché li amo sinceramente. Per esempio il mio preferito, Uomini e Donne, che in periodi di crisi come questo può rappresentare una vera opportunità e un punto d'arrivo per i nostri figli. La scuola, si sa, in questo momento a causa del virus non può garantire una vera e propria continuità. Già molte classi sono in quarantena, mentre nei nasi e nelle gole degli alunni si indaga la ricerca del diabolico agente patogeno, molti ragazzi passeranno parte dell'anno scolastico tra le accoglienti mura di casa, il che probabilmente non è un modo per incrementare la cultura. Ecco che a questo punto, mentre i genitori sono impegnati a controllare gli scontrini, i figli potranno finalmente occupare proficuamente i pomeriggi eventualmente lasciati liberi dallo studio, costruendosi un futuro seguendo l'esempio di tronisti e troniste, specializzati in tatuaggi, French manicure e polemiche sterili. Il modo migliore per avere successo nella nostra società. Ecco, bisogna vincere la sfida della ripartenza. Mi sembra proprio che siamo a buon punto, almeno in mancanza di meglio. Eccolo qua, il negazionista, anche a Cologna, è andato fino a Cologna per fare il negazionista. No, devo dire, sei un genio. Io ieri, ti giuro, ho intercettato per una delle prime volte Uomini e Donne, nel senso che così ero lì, scanalavo, ti giuro, avevo la, sai quando la bocca aperta, quando uno, ecco così, è stupito e guarda una cosa e non ci può credere e non può credere a quello a cui sta assistendo. E beh, per me, io che tu sei un appassionato, per me è incredibile, cioè non guardavo e mi si apriva la bocca dallo stupore dicendo no, ma non è possibile che sto vedendo quello che sto vedendo. E invece sì. Sono dei modelli a cui tutti i nostri figli possono aspirare. Bene, speriamo proprio. Giornale Radio. Così vinceremo la sfida della ripartenza, esatto, anche con la lotteria, esatto, degli scontrini. Esatto, Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, io sono perfettamente d'accordo con te quando dici che c'è troppo allarmismo, che si crea la psicosi, il delirio, ma chi è che provoca allarmismo, psicosi e delirio? Siete voi, noi. Non tu, siete io. Voi comunque noi. Giornalisti, certo. Siete voi carta stampata, siete voi telegiornali, un po' ha ragione, siete voi informazione, un po' ha ragione. Sono mesi e mesi e mesi che aprite con questi toni da tregenda, fate un grandissimo mea culpa e smettetela soprattutto. Ha ragione. Dopo le rispondo, in parte ha ragione. Se per combattere l'evasione fiscale, far ripartire il paese, eccetera, eccetera, eccetera, ci dobbiamo affidare ad una lotteria con gli scontrini, peraltro mettendo in enorme difficoltà gli esercenti, beh, signori miei, non siamo messi benissimo. Uè, Manera, problem solving, guarda che a Cologno Monzese arriva la metropolitana, mollavi lì la macchina e in un attimo eri in Monterosa. In un attimo, insomma, dall'altra parte della città e oltre, però effettivamente problem solving, uè, tac, milanese, tac, problem solving. Purtroppo non è così, purtroppo non dove è così. Dove sei? Dove sei? Sono a adesso sono in via, non lo so, sono una laterale di via Milano a piedi, sono in via Bolzano. Ti puoi fermare poi sono in un bar, andò a fare un'intervista a qualcuno. Ho provato, ma ho visto c'è un'ostilità nei miei confronti, c'è ostilità. Vabbè. Ho provato a parlare con qualcuno dentro il bar, ma erano ostili nei miei confronti. Ma quindi su una panchina, dai da mangiare ai piccioni, fai qualcosa, insomma, fai qualcosa. Se di... Io vado in giro con il cibo da dare ai piccioni, secondo sì. te. Questa è la mia attività, vai da un diciamo, panettiere quotidiana. E compra una micchetta. L'amichetta, senti, senti, ti vengono addosso i camion. Vabbè, sentite, allora, ha ragione l'ascoltatore di prima. C'è certamente da fare un mea culpa generalizzato. Io però, caro ascoltatore, l'ho detto mille volte, non amo le generalizzazioni. Io sono Alessandro Milan e Leonardo Manera è Leonardo Manera. Noi possiamo sbagliare o fare giusto solo per la nostra trasmissione. Non è, se noi, cioè noi non siamo l'informazione tutta. Cosa possiamo fare? Cosa posso fare se uno fa l'allarmista o se io non faccio l'allarmista? Io posso rispondere per me, per i miei comportamenti e Leonardo per i suoi e insieme per i nostri. E poi quello che succede di tutti i giornali, cosa sono lettore anch'io sui giornali, ho la stessa influenza che ha lei sui giornali, caro ascoltatore. Beh, però in parte è vero che l'informazione televisiva ha avuto un approccio... Ha ragione, tipo, infatti ha detto in parte ha ragione, cioè ha ragione, ma non è che dobbiamo fare il mea culpa io e te. Leonardo, nel senso, io posso criticare parte dell'informazione televisiva tanto quanto l'ascoltatore, cioè lui invece dice siccome io faccio parte di questo mondo sarei connivente o colpevole, ma no, io posso solo con i miei comportamenti dire la mia. Ma comunque secondo me dovresti fare un atto responsabile e rinunciare alla tessera un atto di contrizione, una catarsi, una sì, catarsi. Rinuncia alla tessera di giornalista. Guarda qua che notizia che ci porta dal nostro amico di Budelli, Mauro Morandi, il nostro eremita tra virgolette di Budelli, unico abitante dell'isola. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Lì il coronavirus non c'è, anche perché tu tieni a distanza tutti quanti, ovviamente. Sì, minimo 4 metri. Minimo 4 metri. Allora, notizia di ieri, una donna ha detto prima di morire, perché pare si trovi in situazione, voglio far riportare la boccetta della sabbia rosa presa decenni fa dall'isola di Budelli perché mi sento in colpa e voglio che venga riportata lì. Ecco, Mauro sì. Morandi, questa è una notizia no. stupenda. Non è anch'io. È una bella notizia, no? E che cosa ne possiamo trarre? Ha preso coscienza di che cosa vuol dire rispetto dell'ambiente. Questa donna ha preso coscienza di questo, come altre persone. Sono venuti un altro ragazzo che aveva rubato un po' di sabbia rosa dentro la maschera perché era arrivato a nuoto. E per non disperdere la sabbia l'aveva messa dentro la maschera. Poi si era messa la maschera e quando è arrivato sulla barca ha vuotato la maschera da quel po' di sabbia che aveva recuperato e l'ha messa dentro una specie di siringhetta piccola, un piccolo contenitore. Tutto, e me l'ha portata. Sì, tutto perché la gente l'aveva portata via, perché la spiaggia rosa uno si porta via, ma non si deve fare, non si deve fare, anche perché negli anni poi si depaupera l'ambiente, si distrugge, no? Ne hanno portato via tonnellate, perciò hanno distrutto quello che la natura ha fatto in 10.000 anni, questa spiaggia 10.000 anni, e l'uomo in una ventina d'anni che è arrivato qua ha distrutto quello che la natura appunto ha fatto in 10.000 anni. Beh, ma sai perché l'hanno portata via? Perché? Vi siete mai posti il problema? Perché? Secondo il mio parere è per questo motivo, perché noi siamo condizionati a desiderare le cose belle che vediamo, perché la pubblicità e la moda ci dicono: quando vedi qualcosa di bello e io te lo propongo, tu lo devi comprare, lo devi avere, lo devi possedere. E in questo modo gli occhi sono condizionati a questo desiderio, vedono in superficie la bellezza e perciò se la portano via, perché sono autorizzati appunto dal mercato. Il mercato mi dice questo: quando vedo qualcosa di bello lo devo prendere, e perciò se lo sono portati via pensando di portarsi via la bellezza. Esatto. Che poi... loro non si sono portati via la bellezza, si sono portati via un po' di sabbia, perché la bellezza va percepita sul luogo dove sta. Ma sì, certo, non c'è da spiegare che una boccetta di sabbia rosa su una scrivania non riproduce la bellezza della sabbia rosa della spiaggia di Budelli. Ecco. Infatti. Però vedi, i condizionamenti sono tremendi. Uno non se ne rende nemmeno conto, sembra quasi che sia autorizzato a poterlo fare, perché gli ha detto la pubblicità, gli ha detto la moda, e perciò sei autorizzato a farlo. Devi avere, devi comprare, devi possedere. Ormai l'uomo non è più importante perché lui è, importante perché lui ha. Quello che ha. Fa parte un po' anche della natura umana: quando vede qualcosa di bello, immediatamente gli viene voglia di averlo, più che di farne parte, no? Perché non lo ama, perché non vede la bellezza in profondità. È solo andando in profondità della bellezza che allora la si ama e perciò la si rispetta. Ma se uno la guarda solo in superficie, evidentemente che non la ama, evidentemente desidera averla, possederla. Infatti l'uomo è uno stupratore della natura. Va anche contro i desideri della natura, portandola via, distruggendola, eccetera, adoperandola. Perché l'uomo adopera la natura, questa società adopera la natura, non la ama, non la rispetta. Sì. C'è da dire, Mauro Morandi, noi eravamo rimasti sulla questione dello sfratto, eccetera. Però in questo momento Mauro Morandi ci sta parlando dall'isola di Budelli, è lì ancora, perché è una vicenda burocratica lunga, però lui con i suoi 80 anni, se non sbaglio, Mauro, giusto? 81, vabbè, ne ho tolto uno, quindi sono 81 anni, lui desidera vivere lì da solo, vive lì da anni, da 30 anni. Ma perché voglio anche continuare a fare quello che ho sempre fatto qua, salvaguardare questo bene, farlo conoscere fino in fondo ai turisti che vengono, che parlano con me, è diciamo un po' lo scopo della mia vita, come ormai faccio le mie foto e le pubblico su tutti i siti web di cui sono a conoscenza, e lì comunico al mondo la bellezza in profondità, spingo la gente ad andare oltre la superficie, modificando le mie foto, mettendoci dentro i miei stati d'animo. Perciò cerco di creare in loro, nella gente che vede la bellezza, un'abitudine, quella di andare oltre la superficie. Solo in questo modo allora si va a vedere la bellezza in profondità e allora la si ama e la si rispetta. Non è mai venuta la tentazione di vendere dei barattolini di spiaggia rosa finta? Come spiaggia rosa d'artista, parafrasando, spiaggia rosa d'artista, potrebbe chiamare. Guarda che io ho la mia pensione e mi è più che sufficiente a campare qua, perciò non ho bisogno di altri soldi rubati, perché questi sarebbero soldi rubati all'umanità. È una grande provocazione artistica, però una grande provocazione. Sì. Però, infatti. Mauro Morandi, lo trovate su Facebook, poi ha scritto dei libri, uno è La poltrona di Ginepro per Rizzoli, insomma racconta un po' la sua vita, la sua passione per l'amore per la natura incontaminata, per l'isola di Budelli dove arrivò, ci aveva raccontato, pensava di fare un viaggio dall'altra parte del mondo, si è fermato a Budelli, ha detto ma sapete che c'è la bellezza dell'altra parte del mondo, ce l'abbiamo sotto casa qui a Budelli. E da lì. Vabbè, Leonardo, c'è questa notizia che ci ha riportato a chiamarlo, ma ci sentiamo presto, caro Mauro. Questa... Lui è a Budelli, io sono a Cologno Monzese, in via Milano 40. È una scelta. È una scelta. Senti, ma sei sempre in via Milano 40, non ho capito, ma c'hai... È tutto bloccato, è ancora tutto bloccato. Ma dai, adesso su! Ma adesso è una leggenda, sarebbe già finita anche sulla CNN, Cologno Monzese. Non è una leggenda, adesso comincia timidamente a muoversi qualcosa, ma sostanzialmente è ancora tutto bloccato. Ma sono le 10:20, la gente non c'è più in macchina. Allora, chiedi agli abitanti di Cologno Monzese di Cologno Monzese. Un'occhiata e verificare abitanti se è di Cologno Monzese, scrivetemi com'è la situazione, recuperate Leonardo, ma se lo incrociate per strada, ma dove sei esattamente adesso? Più o meno. Al 40. Andiamo al traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Io non lo so se voi avete sentito il traffico, ma effettivamente il traffico racconta di una situazione estremamente bloccata in tutte le parti, tangenziale, est, nord. Insomma, le vie che sta calcando l'entopede. Stavolta bisogna proprio dirlo: l'entopede. Manera. Stavolta non per colpa mia, io sono qui vittima della situazione per aver svolto il mio ruolo di padre, aver accompagnato mio figlio a scuola a Brugherio de Janeiro. Quando penserai di liberarti da questa situazione? Non so, mi è già capitato una volta un paio d'anni fa, e a quel punto ho rinunciato, ho mollato la macchina appunto a Brugherio, sono andato a piedi da Brugherio fino alla metropolitana di Cologno e poi a Cologno sono tornato a Milano e la sera sono tornato ancora in metropolitana a riprendere l'automobile a Brugherio. Sì. Se non migliora la situazione dovrò fare così. Infatti vedi, dicono, hanno appena detto al traffico che c'è un problema, Leo non mente, questa è la notizia del giorno, Leo non mente. Io non mento mai, cioè che io menta sarebbe tutto da provare, io credo di essere l'uomo più sincero del nord Italia. Leonardo ha ragione, tutto bloccato, tangenziale est chiusa da Cologno a Palmanova, vabbè insomma per una volta forse hai quasi ragione, sei imbottigliato nel traffico. Allora signori, ora vogliamo tornare sulla vicenda che abbiamo raccontato 2 giorni fa di Carbone, Basilicata, dove si sono candidate 2 liste, una lista ha portato alla vittoria di un sindaco che si è subito dimesso, la vicenda la ricordate forse, liste di persone totalmente sconosciute ai carbonesi, è la vecchia questione, secondo molti, di... una legge che consente a dipendenti pubblici di avere un'aspettativa se si candidano. Io saluto Rosario Indelicato, che è presidente del SAP, è il sindacato autonomo di polizia. Buongiorno e benvenuto Indelicato, eccoci. Buongiorno a voi. Perché? Perché l'abbiamo chiamata? Perché ci risulta che una parte, non so se tutti, ma comunque una parte di candidati della lista vincente sono poliziotti, sono quindi in forza polizia di Stato, tra l'altro non sono, mi risulta, alla questura di Reggio Calabria ma in un ente distaccato, adesso forse lei ci aiuterà a capire, e sono appartenenti al sindacato, è così? Cioè lei ci può confermare che alcuni ne fanno parte di questo sindacato? Guardi, intanto le dico sì, sembrerebbe che questi colleghi prestano servizio al reparto mobile di Reggio Calabria. C'è un reparto che no, sono diversi nella Polizia di Stato. Se ci sono degli iscritti io non lo so, questo non lo so, ma dico subito che qualora l'amministrazione accerterà questi comportamenti che abbiamo tutti letto nella stampa, ovviamente non escludo di prendere anche noi dei provvedimenti, perché, perché? In maniera è tutto in base alla legge, cioè capisce che sì, è legale, chiaro che so che sappiamo tutti è un fenomeno diffuso, ma ciò non toglie che è un fenomeno, insomma, un atteggiamento per quanto può riguardare i poliziotti che insomma che si dovrebbero vergognare. Non si fanno queste cose, assolutamente inaccettabili, perché è un istituto che dà la possibilità ai poliziotti di candidarsi, quindi è una, diciamo, un diritto. Noi abbiamo tanti poliziotti oggi che fanno i sindaci, i deputati, i consiglieri, quindi andare a sporcare con la divisa queste cose, ovviamente, le dico in maniera chiara, è inaccettabile. Ma guarda, io sono d'accordo con lei, cioè nel senso che sicuramente abbiamo spiegato che c'è una legge, adesso non so quanto risale, è tutto legale. Pare che però questa lista, per esempio, si sia candidata 3 anni fa in un altro comune, in altre regioni dove proprio l'hanno dimostrato dimettendosi, non hanno proprio manco intenzione di fare il sindaco, cioè non gliene frega niente. Una volta eletti si sono dimessi dopo un giorno. Ma allora perché? Perché lo fanno? Per avere l'aspettativa. L'aspettativa dal lavoro. Io certo. Diciamo, non è diciamo legislatore, e cambiare la legge sicuramente secondo me si può fare. Io non so come, perché non è il mio mestiere, però le dico subito, da quel poco che ho potuto accertare, diciamo, uno dei sistemi, se sempre risulta vero quello che insomma è successo, ovviamente, sembrerebbe che queste liste si possano presentare in quei comuni sotto 1.000 abitanti, dove non c'è la possibilità, non devi raccogliere quel tot firme. Certo. Io ecco, da così modestamente potrei dire: guardate, cambiate, mettete un piccolo una deroga alla legge, un piccolo emendamento dove dite anche sotto i 1.000 abitanti non ne devi devi raccogliere un X diciamo firme, dico questa potrebbe essere un'idea, però sì, perché ripeto, se uno deve raccogliere le firme non riesce a raccogliere. Chi utilizza questo sistema deprecabile, uno dei sistemi che gli consente di non andare, di non raccogliere la firma. Secondo me questo può contemperare che la lista deve essere presentata dal luogo e quindi deve firmare un cittadino di quel comune, e quindi si potrebbe ovviare è intollerabile. È intollerabile e deprecabile. Ricordiamo. Soprattutto intanto per noi stessi poliziotti, che chi fa queste cose, tra l'altro, ripeto, l'amministrazione sembrerebbe, mi auguro, che faccia inizi un procedimento disciplinare con tutti i No, ma guardi, carità, noi siamo anche in contatto. Io non condanno nessuno, se non poi è giusto, no? Se però fosse vero quello insomma che dicono queste indiscrezioni, ci mancherebbe altro. Ecco, allora però spieghiamo due cose. Noi intanto siamo in contatto con il questore di Reggio Calabria, nei prossimi giorni spero che abbia voglia e piacere di venire qui a Radio 24 a chiarire le questioni. L'aspettativa per chi si candida in base a questa legge è di 1 mese retribuita, quindi fanno 1 mese a casa retribuiti senza fare campagna elettorale, perché non gliene frega niente se tanto mina tanto. Ecco, le chiedo però in delicato, non sarà complicato per voi del SAP sapere se c'è qualcuno iscritto al SAP? Non ce lo deve dire adesso, però avrete un, come dire, database, controllate. Certamente. E che succede se c'è uno del SAP? Lo espellete? Lo chiamate? Allora, cosa fate? Allora, no, le dico in maniera molto chiara, perché è giusto che sia così. Nel momento in cui, lo accennavo prima, l'amministrazione aprirà, perché come dire, l'amministrazione della pubblica sicurezza, insomma, aprirà, farà delle verifiche su queste questioni. E sarà tutto secondo la legge, perché hanno usufruito di una legge. Accusa, perfetto. Ci mancherebbe, no? Se questi colleghi, saranno, puniti verrà accertata la loro, diciamo, che hanno fatto queste cose, diciamo così. È chiaro che nel momento in cui ci saranno poi dei nostri iscritti, una aderente, a sì, non un sindacalista, sì, ma uno che è iscritto, che ha aderito al sindacato, è chiaro, anche noi, il nostro statuto prevede delle sanzioni. Il problema è che se aprono anche una, chiamiamola indagine o comunque una, un'istruttoria sulla vicenda, loro diranno: ma noi non abbiamo violato nessuna legge, anzi, e quindi si chiuderà dicendo: non possiamo fare nulla nei loro confronti, non hanno violato una legge, il buon senso, come dire, ma il buon senso, sa, ripeto, non è detto, perché qui io non voglio essere né così assumere l'accusatore, però se l'amministrazione vorrà verificare con tutte le diciamo i diritti, diciamo così, alla difesa, tutte le questioni che sono sul piatto, cioè si può verificare se sono state fatte più volte, si può verificare. Ma loro diranno, c'è una legge che me lo consente, dello Stato. Ma non è la legge, però se viene accertato che tu hai usufruito di quella legge per, insomma, il fine che non è, ripeto, io non lo so, può darsi pure che, come dire, vengano, diciamo, perché poi c'è un profilo, ci può essere un profilo disciplinare, sì, o penale, sì, questo sì. Io penale non lo so, magari se su queste cose poi in maniera seria ci si mette, è possibile frenare questo sì, che è un fenomeno che io ho sentito dire in queste ore, che purtroppo nel pubblico impiego non sono casi isolati di questi poliziotti, ma purtroppo è un fenomeno molto ampio, e per questo mi permetto di dire al legislatore di non togliere la possibilità di candidarsi ai poliziotti. Mettere questo emendamento, l'obbligo di firme, di raccolta delle firme. Le firme, io penso che la cosa può essere, può, perché devi andare in quel comune, devi raccogliere le firme, sì, sì. E potrebbe... Beh, effettivamente questa è una proposta di buon senso. Se uno mette le firme, questo fenomeno viene stroncato alla radice, perché chi è che non conoscendo degli abitanti di un paese riesce a raccogliere delle firme, a dire mi candido? Io la prima cosa che gli dico: ma tu chi sei? Cioè, nel senso, assurdo, perché ti devo firmare la lista? Infatti. Va bene, Rosario Indelicato, facciamo così, intanto la ringraziamo, presidente del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, Leo, che questa storia... Dicevo che bisogna dire a queste persone di approfittarne finché la legge non viene cambiata, cioè di candidarsi ancora in più comuni possibili sotto i 1.000 euro a oltranza, finché la legge non verrà cambiata. Sotto i 1.000 euro, mi è andata una buona idea. Sotto i 1.000 abitanti. E tu potresti farlo, ma tu non sei un dipendente pubblico, sì, quindi non hai aspettative. Vabbè, ma magari pagate. Vale anche per la radio, nel senso, cioè, se io mi candido, poi un mese posso percepire di lo stipendio pagato, sì, e non presentarmi per un mese, sì, quindi mi è andata un'ottima idea. Perché adesso cosa fai, scusa? Ti presenti? Adesso io, invece di essere magari a fare un bel idromassaggio da qualche parte, dove sei in questo momento? Fermo a Colonia Monzese, Viale Milano 40. Ma non è vero, non puoi essere immobile, che non ti sei spostato neanche di un centimetro dalle 9 del mattino. Non ci credo. Perché ho parcheggiato, sono davanti all'estetica Solarium Duomo, che è chiusa. No, adesso è aperta. Ecco, vai, allora, borsa, tu entra e distanziamento fisico posso entrare, non posso, fatti una ceretta, seduta sui gradini, ti spiego, sì. Allora, sui gradini del centro estetico c'è una ragazza che mi guarda come se io fossi un rettile, quindi non è ben disposta nei miei confronti. Beh, no, però rispetto ai tuoi peli da togliere, forse sì, dai, vabbè, vai, borsa. Ha ragione Manera, Milan, ascolta il traffico, ciao. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Pons Pao con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Ma Milan non ha sentito il traffico? Hanno appena detto che ci sono delle code tremende in tangenziale. Ha ragione Manera, poverino, per questa volta. Infatti. Guarda che è da stamattina alle 6:30 che dicono che ci sono sti problemi. Ha ragione Manera. Oggi ha proprio ragione Manera. Oh. Ma ho fatto mea culpa. Devo fare ricorso agli organi competenti di Radio 24 per mobbing, perché mi state facendo mobbing. No, sì, allora, evidente. Però lui da una disgrazia relativa poi cade nella tragedia totale, cioè sarebbe fermo da un'ora e mezzo in via dove Milano 40. Corso Milano 40, di fronte all'estetica Solarium Duomo. Vabbè. E poi chissà perché Duomo, che non c'è, non vedo il Duomo di Cologno qui. È un nome bizzarro. Signori, signori, non so se si avvicina al Duomo di Cologno, perché estetica solari un Duomo. Mi risulta il Duomo, il Duomo di Cologno. Davanti non ho il Duomo. Forse è Mediaset il Duomo. Il Duomo per questa non si vede neanche magari. Qui. Insomma, il Duomo. Vicino. Poi sono davanti a un negozio di abbigliamento che si chiama Petronilla. Che strano nome, Petronilla. Vabbè, Petronilla. Chi era? Ah, beh, non lo... se avessi un negozio di abbigliamento allora, non lo chiamerei Petronilla. Secondo me è un nome sbagliato. Un nome sbagliato, va bene, vai dentro a dirglielo. Senti qui invece, Leonardo, attenzione, perché c'era in onda su Primo Canale, credo, il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Stava facendo un'intervista con una giornalista, una collega, ma succede all'improvviso qualcosa. Vi facciamo sentire l'audio, sentite un po'. Senti, il buon sindaco di Ventimiglia. Ce l'abbiamo? Adesso arriva, ce l'abbiamo. Sindaco, sono sempre davanti a... No, sindaco, un attimo. Cos'è successo? Mi ha portato via la... Cosa? Il giaccone. Ma come? In diretta, il sindaco Scullino aveva appoggiato qui alla panchina, davvero, la giacca. Si è girato e mi ha detto me l'hanno portata via. Diretta, sindaco davvero. Gaetano sindaco. Scullino, buongiorno. Buongiorno a voi. Ma che Radio 24. Ma lei era lì a parlare di sicurezza, tra l'altro, mi risulta. Scusi se rido. Era lì, si è distratto nell'intervista, gli ha rubato la giacca. In diretta. Ma a 3 metri, ma siamo noi dei che non siamo che siamo disattenti. A 3 metri, non ce ne siamo accorti. Vabbè. Ma com'è possibile? Così. È andata così, insomma. Ma c'aveva il portafoglio così, anche vabbè, dentro. Purtroppo cioè... anche dentro c'era la fascia da sindaco, perché no. Andavo da una manifestazione. Vabbè, è andata così. E come si fa quella? Deve denunciare? Io ho fatto la denuncia, sì, ho fatto la denuncia, l'ho fatto già alla segreteria, un acquisto personale, perché... è un'imprudenza mia e quindi pago. Paga. No, ma accidenti, ma c'era dietro anche il portafogli, che sono le cose più fastidiose. No, no, no, la giacca. Vabbè, un giaccone. Purtroppo è così. Purtroppo, tra l'altro mi dispiace molto, signor Milan, perché abbiamo l'impressione che la città di 20.000, 30.000 abitanti sia... la città insomma è molto insicura quando ma no ma adesso insicura, è insicura dai una giacca adesso. Non lo è una piccola ma lei caputo. Non ha visto l'atto cioè si è girato e no stavamo lo sai quando io parlo con voi giornalisti bisogna fare molta attenzione a quello che si dice e quindi allora ero concentrato sulle risposte alle domande che mi faceva la sua collega quindi né io né loro né anche gli operatori si sono resi conto che ma pensi che su quella panchina a 3 metri, prima c'era la telecamera, tutto quello che erano le attrezzature per poter fare l'intervista, beh, sarebbe stato ancora più grave che portare sulla telecamera. Sì, diciamo che uno puntava al portafoglio, ma secondo lei sapeva che lei era il sindaco? Beh, avrà visto che era intervistato, avrà detto che sarà un personaggio... Ma non credo, diciamo che qui purtroppo 20.000 persone tra i migranti e tra gli italiani, qualche persona in difficoltà, purtroppo c'è, ecco, naturalmente puntavano al portafoglio. La presa sia una persona che abbia bisogno, perché se la metta, perché è una bella, un bel giacone, tutto sommato che stia al caldo. Che stia al caldo, vabbè. Disavventura del sito, il bello della diretta, caro Leonardo, a te non mi hai rubato niente mentre facevi uno spettacolo. Sì, dicevo al sindaco che a me è capitata una cosa analoga a Levanto, quindi non so se è proprio uno specifico della Liguria che c'è la passione per l'abbigliamento, di sottrarre l'abbigliamento. No, ma io mi auguro che sia un episodio così. Ecco, sì, è vero. Che... Manera ce l'ha detto una volta allo spettacolo, no? Avevi lasciato la giacca lì a fianco. Stavo facendo qualche foto e mi sono voltato e la giacca, il mio costume di scena non c'era più. Magari è la stessa persona che spostandosi in Liguria va a sottrarre giacche. Da Levanto a Ventimiglia. Giacche. No, non è così. Certo. No, sindaco, vabbè, però devo dire che con professionalità è tornato a fare l'intervista a dire mi ha rubato la giacca. Cosa deve fare? Purtroppo non è che si può fare la figura, bisogna drammatizzare. Poi è stato preso un po' in giro, vabbè, pazienza, questo ci sta, a me non imparo. Ah, certo. Però quello che mi dispiace, mi auguro tramite la vostra esistenza, è importantissimo, io seguo. Ma no, anzi facciamo un appello, non accadrà, però chi ha preso la giacca non starà ascoltando Radio 24, se ha trovato la fascia da sindaco, quantomeno, ecco, la lasci da qualche parte, dai, la fascia da sindaco, che te ne fai, insomma, caro ladro. Ti monti la testa, Manera andrebbe in giro con la fascia da sindaco a montarsi la testa. Sì, ma secondo me è stato rubato proprio per questo motivo, la giacca è stata rubata per poter avere la fascia da sindaco. Non credo. Sindaco, mi ripeto, mi auguro che sia una persona che faccia, che ha bisogno e che stia un po' al caldo, va bene. Non voglio, non mi interessa la situazione della giacca, ma della fascia, che non è mia. Dell'istituzione e dello Stato, certo. Va bene. Sindaco, grazie. Vabbè, la sentiremo per altre vicende, come abbiamo già fatto in passato, Ventimiglia, insomma, città di frontiera, e quindi in passato l'abbiamo sentito per questo motivo con la Francia. Grazie Gaetano Scullino. Mi piace l'idea di avere la fascia da sindaco. Sai come si vede in certi film western dove i pelle rossa poi mettono le giacche blu degli avversari, ecco, sarebbe bello girare in città, in casa con la fascia lo da scalpo sindaco, del sindaco di Ventimiglia, praticamente. Petronilla, negozio forse dedicato a un personaggio delle fiabe del clown Neronello, ci scrive Fabrizia da Verona, forse, non lo so, però qui mai che non entra nessuno né da Petronilla né a Estetica Solari Uomo. Ma già, allora, ma perché sei, so, allora fai bene la pubblicità, allora, entra da Petronilla, dici scusi ma fammelo per favore dopo il traffico, bussa, dici buongiorno, siamo in diretta su Radio 24, ti becchi il tuo vaffa e basta, noi siamo tutti felici, dai, traffico, vediamo se si è risolta la questione o se rimarrai fino a notte a Cologno, vai. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan. Come si dice, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Togliere subito l'aspettativa retribuita dalla pubblica amministrazione non esiste. Se uno va in aspettativa non prende lo stipendio. Io, se fossi un abitante di Carbonia, denuncerei questi candidati per comodo che poi hanno lasciato all'indomani delle elezioni per aver creato un danno d'immagine, un danno economico e un danno morale al paese. Carbone in provincia di Potenza, non è Carbonia, Sardegna, Carbone, comunque la denuncia. Comunque il traffico ha detto diamo aggiornamenti sulla tangenziale est per venire incontro a Leonardo Manera, tu non so se hai sentito. E ragazzi, ormai sei la barzelletta d'Italia. La barzelletta. Cosa è successo? Nel traffico hanno detto diamo aggiornamenti sulla tangenziale per venire incontro a Leonardo Manera. Cioè ti hanno anche... Ah, così hanno detto? Sì, non ho sentito. Sì. è ancora tutto bloccato, c'è poco da ridere, adesso si muove, si muove poco, ma si muove. Adesso spero di poter rientrare a Milano entro un paio di giorni, di poter rientrare a casa. Forse, stai a Brugherio, vai anche a Leblon, lì a Ipanema, stai a Brugherio. Brugherio de Janeiro. Dai, spostati adesso che è arrivato, abbiamo 4 minuti e mezzo, il professor Piero Picchio, virologo. Professore, buongiorno. Grazie. Eccomi qua, ho trovato qualche minuto per tornare a voi, perché sono molto stanco, anche se sono molto stanco, ho passato il weekend a saltare da una sfilata all'altra. Ah, mi è andato il posto in prima fila, ben distanziato, perché noi virologi siamo le star del momento, così lei ha fatto bene a invitarmi. Così posso dare risposte chiare riguardo al coronavirus. Tante domande. Prego. Covid-19, poi avremo il Covid-20, il 21 e così via. Per sempre. Siete contenti? Per sempre. Benissimo. Covid per sempre. Siamo un po' ignoranti, come lei sa, quindi grazie a lei. Allora, certo, siete un pubblico di ignoranti, non sapete nemmeno cos'è un derivato pirrolidonico, non lo sapete. Aspetti, no, perché io questo l'avevo studiato. Derivato pirrolidonico, e volete tornare alla normalità senza sapere cos'è un derivato pirrolidonico. Sì, è una molecola, molecola. Sì, bravo, signor Wikipedia. Invece di Alessandro Milan, si faccia chiamare Alessandro Wikipedia. Detto anche Levetiracetam, striato. Alessandro Wikipedia, laureato in scienze politiche. Sì, è vero. Che risata, allora, coinvolgente. Facciamo un quiz al volo. Sì. Allora, qual è, facciamo questa domanda. Allora, quale lettera non è mai comparsa in nessuna versione della tavola periodica? Questo non lo trovo su Wikipedia. Vediamo. Quale lettera non è mai comparsa in nessuna versione della tavola periodica? Allora, secondo me. Non lo sa. L'ignoranza al potere. Ma ce lo dica lei. La lettera J. Ah, okay. Altra domanda: la temperatura di fusione del gallio. Vediamo se la trovo questa su Wikipedia, le do 5 secondi. No, guardi, allora, la temperatura secondo me è 29,76 gradi. Bravo, ce l'ha fatto in tempo. Grazie, l'ho studiato. Guardi che sì. Vabbè, sì, basta. Lei ha studiato, dove si è laureato? Lei è all'Università per Stranieri di Perugia. No, la statale. Insieme a Suarez. La statale di Milano, devo dire. Beh, allora passiamo alle domande ignoranti, ecco, degli ascoltatori perché, ignoranti. Per esempio, vediamo se c'è qualche domanda. Sì, Massimo da Urbino chiede: come posso proteggere mio figlio dal raffreddore? Allora rispondiamo all'ignorante Massimo, detto anche Massimo dell'ignoranza. Non è vero. Allora, è difficile darti una risposta sola. Ti lascio il mio numero, così tutte le mattine mi chiami Massimo e decidiamo insieme se mettere la felpina oppure se no con la felpina suda e così via. Poi magari ti aiuto anche a preparare una bella merendina, caro Massimo ignorante d'Urbino. Se tuo figlio prende il freddore, gli metti una bella copertina, gli dai un po' di latte e cognac e gli dici di stare a casa. Lui e tutto il resto della famiglia, compresi gli zii che vivono in America, perché ricordiamo che il virus viaggia, quindi l'importante al primo naso che cola è stare a casa. Tutti. Senta, noi avremo 30 secondi, ce la fa rispondere a Francesca da Torino, vediamo, che chiede: col freddo è meglio evitare luoghi chiusi? Allora, Francesca, grazie per questa domanda intelligente, anzi fammene altre. Vuoi sapere se si può mettere il formaggio sulla pasta con il pesce? No, non ha chiesto questo. Oppure vuoi sapere cosa farei se mi imbattessi in un orso lungo una passeggiata in montagna? Boh, chi lo sa. Allora, cara Francesca da Torino, presidentessa del Club Internazionale dell'Ignoranza, cosa vuoi che ti dica? Che vuoi andare al ristorante a sputacchiare nei piatti degli altri? Che puoi chiuderti in un bar per ore e ore a sfogliare i giornali che hanno toccato tutti? L'unica risposta è stare a casa. Vabbè. Stare a casa. Abbiamo capito, professore, dobbiamo salutarla e niente, ci troviamo domani alle 9:00.